È appena trascorsa una settimana in cui si è fatto un gran parlare di calcio. È bastato che quel che accade settimanalmente ai poveri sia capitato una volta anche ai ricchi perché la gente cominciasse a parlare dell'economia politica sottesa ad un gioco che per tacito consenso e per supina accettazione della logica che governa il mondo di solito si considera soltanto in quanto tale. Meno, forse nulla, si è parlato invece di un episodio inerente al gioco del calcio, accaduto appena una settimana prima, su cui vale almeno altrettanto la pena di riflettere. Siamo a Palau, provincia di Sassari, e siamo in un supermercato presumibilmente già in disgrazia. C'è infatti un unico cliente e un paio di commesse. Entra un giovane disperato con un fucile a canne mozze e una pistola, spara un colpo in aria e dichiara i presenti suoi ostaggi. Come in uno spot pubblicitario delle pagine gialle, si barrica dentro minacciando gli ostaggi e chiede alla polizia non Claudia Cole, ma più umanamente la sua fidanzata, che recentemente l'ha lasciato. Vuole parlarle, altrimenti garantisce una strage. La polizia rintraccia questa fanciulla e, munendola di giubbotto antiproiettile, la convince ad entrare nel supermercato assediato. Ma all'ultimo momento interviene un signore che si fa largo fra la folla e dice «No, guardate, se volete entro io». Lo lasciano fare. Questo entra e 5 minuti dopo esce con il ragazzo sotto braccio. In lacrime si è arreso. Per una volta è andata bene. Tutti salvi. Il ragazzo disperato fino a pochi mesi prima giocava a pallone, poi un grave incidente ne ha troncato la carriera. Il signore che ha chiesto di entrare al posto della ragazza era il suo allenatore. Anche a Friedrich Dürrenmatt, lo scrittore, capitò di dover rinunciare al gioco del calcio. Come racconta con molto pudore in Eclissi di Luna, che è un po' la sua autobiografia, da ragazzino si ammalò di quel che il medico di allora qualificò come una encefalite. E dopo 2 mesi di malattia, nei 50 metri, come racconta, non era più uno dei più veloci. E anzi era diventato uno dei più lenti, mentre al pallone poteva calciare soltanto di destro. Così, nei suoi ricordi successivi, al posto di quelle mirabolanti imprese che non ha mai più potuto compiere, Dürrenmatt parlerà di un ragazzino senza gambe che ai margini del campo di calcio se ne stava seduto sulla sua carrozzina, sorvegliato dalla sorella. Tanto ha accumulato di valori questo gioco in poco più di 100 anni di pratica. L'allenatore, colui al quale ci si affida per superare sempre meglio le prove sempre più difficili, colui cui spetta il giudizio, colui che abilita o stronca, non tanto allora l'allenatore da Serie A, ma l'allenatore dei ragazzi, l'allenatore dei dilettanti, di coloro che sognano di poter un giorno giocare nei grandi stadi, l'allenatore rappresenta una delle poche opportunità ideologiche rimaste, almeno a livello di figura istituzionale riconosciuta. Nello sfascio della progettualità politica è una delle agenzie educative ancor dotate di un minimo di vitalità che si avvalga di una sorta di ratifica rilasciata da coloro che di principio e per partito preso gli sono subordinati. Allora, se l'unico cliente del supermercato rappresenta la società, se le due commesse rappresentano il potere economico, se la polizia rappresenta ovviamente la legalità, se la sua ragazza rappresenta l'amore e se a tutto ciò si può dire anche di no, l'allenatore rappresenta tutto ciò che di valore condiviso tutti gli altri non possono più avere. E a lui si dice di sì. Lo svizzero Dürrenmatt rivela tutto il suo pudore, inconsueto negli scrittori, allorché a questi appunti autobiografici premette che paragonata al destino di quei milioni e milioni che sono vissuti prima di me, vivono mentre io vivo e vivranno quando io non vivrò più, la mia vita mi appare talmente privilegiata che mi vergogno a trasfigurarla oltretutto in forme letterarie. Quel pomeriggio di un giorno da cani e film era stato diretto da Sidney Lumet e interpretato da Al Pacino nel 1972. Già duplicava un fatto purtroppo realmente accaduto e come uno stampo ben riuscito diventava un prototipo senza freni per mille eventi futuri. Fino al punto di diventare, nella cultura metropolitana di 26 anni dopo, per l'appunto, trama buona per uno spot pubblicitario. Ma non si può evitare di rilevare che, mentre già ci si scherza su, al contempo, in qualche sacca ritardataria, diciamo così, c'è qualcuno che lo fa ancora sul serio. Da Hollywood a Palau, in provincia di Sassari, da chi come Al Pacino era il disperato reduce dal Vietnam, a chi non è meno dignitosamente disperato perché reduce, che so, da un'operazione al menisco.